Wang Lung pensava che adesso nella sua casa avrebbe avuto pace. Quando le acque si ritirarono e arrivò l'estate e i buoni semi dovevano essere piantati nella terra, andò in lungo e in largo ed esaminò ogni appezzamento e discusse con Qing la qualità di ogni suolo e come si dovessero cambiare le colture per aumentare la fertilità della terra. E ogni volta che andava si portava appresso il figlio minore, che sarebbe dovuto stare sulla terra dopo di lui, in modo che imparasse. E Wang Lung non lo guardava mai per capire se e come lo ascoltasse, perché il ragazzino camminava con la testa china e aveva il viso accigliato e nessuno sapeva cosa pensasse. Ma Wang Lung non vedeva cosa faceva, solo che camminava in silenzio alle spalle del padre. E quando tutto era stato programmato, Wang Lung tornò a casa contento e disse al suo cuore: «Non sono più giovane e non devo più lavorare con le mani, perché ho degli uomini sulla mia terra e in casa ho la pace e i miei figli». Ma quando entrò nella sua casa non trovò pace. Sebbene avesse dato una moglie a suo figlio e avesse comprato abbastanza schiave che servissero tutti, e sebbene allo zio e alla moglie dello zio venisse dato abbastanza oppio perché ne godessero tutto il giorno, ancora non c'era pace. E di nuovo il motivo erano suo figlio maggiore e il figlio dello zio. Sembrava che il figlio maggiore di Wang Lung non riuscisse proprio a lasciar cadere l'odio verso il cugino o il profondo sospetto della sua malignità. In gioventù aveva visto a sufficienza con i suoi occhi come quell'uomo che era suo cugino fosse pieno di vizi ed erano successe cose per cui il figlio di Wang Lung non usciva nemmeno per andare alla casa da tè, a meno che non ci andasse anche il cugino, e lo teneva d'occhio e usciva solo se anche lui usciva. E sospettava l'uomo di compiere spregevolezze con le schiave e perfino nella corte interna con Loto, anche se era inutile perché ogni giorno lei diventava sempre più grassa e vecchia e da tempo non si interessava a niente se non al cibo e al vino, e non si sarebbe presa la briga nemmeno di guardare l'uomo se lui le si fosse avvicinato ed era persino contenta che a causa dell'età Wang Lung andasse sempre meno a trovarla. Ora, quando Wang Lung tornò dai campi con il figlio minore, il maggiore prese da parte il padre e disse: «Non intendo più tollerare in questa casa mio cugino, che passa il tempo a sbirciare e girovagare con la veste sbottonata e gli occhi puntati sulle schiave». Non osò dire al padre quello che pensava e ha pure il coraggio di andare a sbirciare la tua donna nelle corti interne. Perché con un senso di disagio nelle viscere si ricordò che un tempo le era girato intorno anche lui e ora, vedendola com'era, grassa e più vecchia, faticava a immaginare di averlo mai fatto, se ne vergognava moltissimo e a nessun costo avrebbe voluto richiamarlo alla memoria del padre. Mantenne quindi il silenzio su questo e menzionò solo le schiave. Wang Lung era arrivato con fare energico e di buon umore dai campi perché l'acqua aveva lasciato la terra e l'aria era asciutta e calda ed era contento del figlio minore che l'aveva accompagnato e rispose irritato per quel nuovo problema in casa. «Tu sei uno stupido ragazzino, se ci pensi sempre. Ti sei affezionato a tua moglie, ti sei affezionato troppo e questo non sta bene, perché un uomo non dovrebbe tenere alla moglie che gli hanno dato i genitori più che a qualsiasi altra cosa al mondo. Non è opportuno per un uomo amare sua moglie di un amore così stupido ed esagerato come se lei fosse una prostituta». Il giovane fu ferito dal rimprovero del padre, perché più di tutto temeva di essere accusato di tenere un comportamento non corretto, come se fosse un uomo ignorante e comune, e prontamente rispose: «Non è per mia moglie, è perché non sta bene nella casa di mio padre». Ma Wang Lung non lo ascoltò, era assorto nella sua rabbia e disse ancora: «E non finirò mai di vedere tutti questi problemi in casa tra uomini e donne. Sto diventando vecchio e il sangue si raffredda e finalmente sono libero dalla libidine. Vorrei un po' di pace e devo sopportare la libidine e le gelosie dei miei figli». E poi, dopo qualche istante di silenzio, gridò ancora: «Beh, e cosa dovrei fare secondo te?» Il giovane aspettò con pazienza che l'ira del padre passasse, perché aveva qualcosa da dire e Wang Lung l'aveva capito chiaramente mentre gridava: «Beh, e cosa dovrei fare secondo te?» Il giovane allora rispose con fermezza: «Vorrei che lasciassimo questa casa e andassimo a vivere in città. Non è opportuno che continuiamo a vivere in campagna come bifolchi. Potremmo andarcene e lasciare qui mio zio con sua moglie e mio cugino e potremmo vivere al sicuro in città dentro le mura». Wang Lung scoppiò in una risata breve e amara quando suo figlio disse questo e rigettò via da sé il desiderio del giovane, giudicandolo qualcosa di inutile che non valeva la pena considerare. «Questa è la mia casa», disse con fermezza, sedendosi al tavolo e avvicinando a sé la pipa. «E tu puoi viverci oppure no, è la mia casa e queste sono le mie terre. E se non fosse per le terre, moriremmo tutti di fame, come è successo agli altri, e tu non potresti andare in giro con i tuoi vestiti raffinati senza far nulla come un letterato. È la buona terra che ti ha reso qualcosa di meglio rispetto al figlio di un contadino». E Wang Lung si alzò e si allontanò e si mise a camminare con passi pesanti e rumorosi nella stanza centrale, comportandosi rozzamente e sputando sul pavimento come avrebbe fatto un contadino, perché malgrado una parte del suo cuore esultasse per la raffinatezza di suo figlio, l'altra parte era energicamente sprezzante verso di lui, sebbene sapesse di esserne segretamente orgoglioso, e provava orgoglio perché nessuno guardandolo avrebbe immaginato che fosse distante dalla campagna solo una generazione. Ma il figlio maggiore non era pronto a cedere. Seguì il padre dicendo: «Ci sarebbe la vecchia casa grande dei Huang. La parte davanti è piena di tantissima gente comune, ma le corti interne sono chiuse e tranquille. Potremmo affittarle e vivere lì in pace. E tu e il fratello minore potreste andare avanti e indietro e io non mi lascerei più muovere all'ira da quel cane di mio cugino». E allora cercò di persuadere suo padre e lasciò che le lacrime gli riempissero gli occhi e le lasciò scorrere sulle guance senza asciugarle e disse di nuovo: «Io cerco di essere un buon figlio e non gioco d'azzardo e non fumo oppio e sono contento con la donna che mi hai dato. Ti chiedo poco ed è tutto». Non è certo che le lacrime da sole avrebbero commosso Wang Lung, ma fu certamente toccato dalle parole del figlio che aveva accennato alla grande casa dei Huang. Wang Lung non aveva mai dimenticato che una volta era entrato strisciando nella grande casa, pieno di vergogna davanti a quelli che ci vivevano, tanto da avere paura persino del custode, e per tutta la vita gli era rimasto il ricordo di quella vergogna e lo odiava. Per tutta la vita aveva avuto la sensazione che la gente lo considerasse inferiore a quelli che stavano in città, e quando si era trovato alla presenza dell'anziana padrona della grande casa, quella sensazione si era fatta ancora più bruciante. Così, quando suo figlio aveva detto: «Potremmo vivere nella grande casa dei Fang», il pensiero si era infisso nella sua mente, come se lo vedesse davvero davanti agli occhi. «Potrei sedere sulla sedia dove era seduta la vecchia, quando mi ha ordinato di stare lì come un servo, e adesso potrei sederci io e far venire un altro alla mia presenza». Rifletté, si disse nuovamente: «Potrei farlo se lo desiderassi», e si trastullò con quel pensiero e stava seduto in silenzio e senza rispondere al figlio. Mise però del tabacco nella pipa e la accese con una striscia di carta lì pronta e fumò. E sognò quel che avrebbe potuto fare se lo avesse desiderato. Non a causa di suo figlio, quindi, e non del figlio di suo zio, sognò di vivere nella casa dei Huang, che per lui era sempre la grande casa. Quindi, pur non essendo inizialmente pronto a dire che se ne sarebbe andato o che avrebbe cambiato qualcosa, dopo quella conversazione fu più che mai contrariato dall'indolenza del figlio di suo zio e lo osservò con grande attenzione, ed era vero che lanciava sguardi alle ragazze. Allora Wang Lung disse fra i denti: «Certo, non posso vivere con quel cane libidinoso in casa mia». Guardò lo zio e vide che era dimagrito a furia di fumare oppio e la sua pelle era gialla per l'oppio ed era chino e vecchio e sputava sangue quando tossiva. E guardò la moglie dello zio, ridotta a un vegetale, ansiosa solo di fumare la sua pipa d'oppio, e ne era contenta e assonnata, ma creavano ormai pochi problemi e l'oppio aveva ottenuto il risultato sperato. C'era tuttavia il figlio dello zio, un uomo ancora non sposato, con i suoi desideri da bestia selvaggia, e non avrebbe ceduto tanto facilmente all'oppio come i due vecchi, sfogando le sue voglie nei sogni. Wang Lung non voleva che si sposasse in casa per timore della progenie che ne sarebbe venuta, e uno come lui era abbastanza. E non aveva nemmeno intenzione di lavorare perché non ce n'era bisogno e nessuno lo costringeva, a meno che le ore che trascorreva fuori la notte non si potessero chiamare lavoro. ma anche queste erano sempre meno frequenti perché a mano che la gente tornava alla terra, nei villaggi e in città l'ordine si ristabiliva e i briganti si ritirarono sulle colline a nord-ovest e il figlio dello zio non volle seguirli preferendo vivere della generosità di Wang Lung. Ed era perciò una spina nel fianco in casa e ciondolava dappertutto senza far niente, parlando e sbadigliando, vestito a metà persino a mezzogiorno. E dunque un giorno in cui era andato in città per incontrare il secondo figlio al mercato del grano, Wang Lung gli chiese: «Secondo figlio, cosa dici del desiderio del tuo fratello maggiore di trasferirci in città, nella grande casa, se riusciamo a prenderne in affitto una parte?» Il secondo figlio era ormai diventato un uomo ed era strigliato e lindo come gli altri impiegati del negozio, anche se era rimasto piccolo di statura e aveva la pelle gialla e gli occhi penetranti. E rispose con pacatezza: «È un'ottima idea e andrebbe bene anche a me, perché mi potrei sposare e avere lì anche mia moglie e saremmo tutti sotto un unico tetto, come una grande famiglia.» Wang Lung non aveva ancora organizzato niente per sposare il secondo figlio, perché il ragazzo aveva un carattere freddo e riservato e non aveva mai mostrato segni di libidine e il padre aveva altre preoccupazioni. Ora, tuttavia, disse con una certa vergogna, perché sapeva di non essersi comportato bene in quel senso con il figlio minore: «Beh, è da tempo che mi dico che bisognerebbe sposarti, ma tra una cosa e l'altra non ne ho avuto il tempo e con l'ultima carestia e la necessità di evitare le feste, ma adesso che la gente ha ripreso a mangiare bisogna farlo.» E passò segretamente in rassegna la propria mente, chiedendosi dove avrebbe potuto trovare una ragazza. Allora il secondo figlio disse: «Bene, allora mi sposerò, perché è una buona cosa, è meglio che spendere i soldi per una cortigiana quando arriva il bisogno, ed è giusto per un uomo avere figli. Ma non prendermi una moglie da una casa di città come quella di mio fratello, perché parlerà sempre di quel che c'era nella casa del padre e mi farà spendere soldi e non me ne verrà che rabbia.» Wang Lung lo ascoltò con stupore. Non sapeva infatti che sua nuora fosse così, perché la vedeva solo attenta a mantenere un comportamento inappuntabile e ad apparire attraente. Ma gli sembrarono parole giudiziose ed era felice che suo figlio fosse acuto e pensasse a come risparmiare soldi. Lo conosceva molto poco, a dire il vero, perché era cresciuto debole accanto al vigore del fratello grande e, a parte i suoi strilli da piccolo, non era stato un bambino o un ragazzo a cui si prestasse grande attenzione. Dopo che era andato nel negozio, Wang Lung non aveva più pensato a lui se non quando qualcuno gli chiedeva quanti figli avesse e lui rispondeva: «Ho 3 maschi.» Guardò ora il giovane, il suo secondo figlio, e vide i suoi capelli tagliati, lisci, oliati e morbidi, e l'abito lungo e pulito di seta grigia con un motivo piccolo, e vide i suoi movimenti sicuri ed eleganti, gli occhi misteriosi, e si disse sorpreso: «È così, anche questo è figlio mio.» E ad alta voce disse: «Che tipo di ragazza vorresti allora?» Allora il giovane rispose sciolto e con fermezza, come se si fosse già preparato: «Voglio una ragazza di campagna, di una famiglia che possieda buone terre, senza parenti poveri, una che si porti una buona dote. Né bella né brutta, è una brava cuoca, così anche se avremo servi in cucina potrà sorvegliarli, e deve essere una che se compra riso sia la quantità giusta e non una manciata di più, e se compra stoffa il vestito sia ben tagliato, in modo che gli avanzi stiano nel palmo della sua mano. Voglio una cosa così.» Sentendo questo discorso, Wang Lung fu ancora più sorpreso. Eccoli un giovane di cui non conosceva la vita, anche se era suo figlio. Non era questo il sangue che scorreva nel suo corpo vigoroso quando era giovane, né in quello del figlio maggiore. Eppure ammirava la saggezza del ragazzo e disse ridendo: «Bene, proverò a trovare una ragazza così e Ching la cercherà nei villaggi.» Sempre ridendo se ne andò e percorse la strada dove si trovava la grande casa. Esitò davanti ai leoni di pietra e, siccome non c'era nessuno a fermarlo, entrò. E le corti anteriori erano come se le ricordava dopo averle viste quella volta che era andato a cercare la prostituta che temeva potesse guastargli il figlio. Sugli alberi erano appesi vestiti ad asciugare e dappertutto sedevano donne occupate a spettegolare, mentre infilavano i grandi aghi attraverso le suole delle scarpe e stavano cucendo. e i bambini rotolavano nudi e impolverati sulle piastrelle delle corti, e il luogo aveva l'odore della gente comune che si affolla nelle corti dei grandi, quando i grandi se ne sono andati, e guardò verso la porta dietro la quale viveva la prostituta, ma era aperta e un altro viveva lì adesso, un vecchio, e Wang Lung ne fu contento e proseguì. Un tempo, quando ci viveva la grande famiglia, Wang Lung avrebbe sentito di appartenere a quelle persone comuni, ostili ai grandi verso i quali provava un misto di odio e paura. Ma adesso che aveva la terra e argento e oro ben nascosti e al sicuro, disprezzava quella gente che si affollava dappertutto dicendosi che era sporca e si fece strada col naso sollevato e respirando appena a causa della puzza che emanavano. E li disprezzava ed era ostile a loro come se lui stesso appartenesse alla grande casa. Proseguì inoltrandosi nelle corti più per oziosità che non perché avesse deciso qualcosa, ma andò avanti e arrivato in fondo trovò una porta chiusa davanti a una corte e accanto c'era una donna che sonnecchiava. La guardò e vide sulla sua faccia i segni del vaiolo e capì che era la moglie dell'uomo che un tempo era stato il custode. Il fatto lo sorprese e la guardò. La ricordava come una donna prosperosa di mezza età e adesso invece era smunta e rugosa, i capelli bianchi e i suoi denti erano spuntoni gialli e radi nelle mandibole. E guardandola così, vide in un momento quanti anni erano passati e con quale velocità. Da quando era arrivato lì, un uomo ancora giovane con il primo figlio neonato fra le braccia. E per la prima volta nella sua vita, Wang Lung sentì la propria vecchiaia avvicinarsi strisciando. Poi, in tono un po' triste, disse alla donna: «Svegliati e fammi entrare!» E la vecchia sussultò, ammiccando e leccandosi le labbra asciutte, e disse: «Non posso aprire, se non a chi potrebbe affittare tutte le corti interne!» Ed un tratto Wang Lung disse: «Bene, io potrei, se il posto mi piace». Non disse chi era, ma entrò dopo di lei, ricordando bene la strada, e la seguì. Le corti erano immerse nel silenzio. Là c'era la piccola stanza dove aveva lasciato il cesto, qui le lunghe verande sorrette dai pilastri delicati, verniciati di rosso. La seguì nella grande sala. E la sua mente ripercorse rapidamente all'indietro gli anni, fino al momento in cui si era trovato là, in attesa di sposare una schiava della casa. Davanti a lui c'era la grande pedana di legno intagliato, dove sedeva l'anziana signora, il corpo fragile, ben accudito, avvolto in raso argentato. E mosso da uno strano impulso, andò avanti e si sedette dove lei si era seduta, e mise la mano sul tavolo, e dalla posizione elevata in cui si trovava, guardò giù verso la faccia stanca della vecchia che lo guardava e aspettava in silenzio quel che lui avrebbe fatto. Poi un senso di appagamento che aveva sempre desiderato, pur senza saperlo, gonfiò il suo cuore e batté la mano sul tavolo e disse all'improvviso: «Voglio questa casa!» 29. In quei giorni, quando Wang Lung decideva una cosa, doveva farla subito. Più invecchiava e più diventava impaziente di finire le cose e trascorrere l'ultima parte del giorno in pace e ozio a guardare il sole del tardo pomeriggio e a dormicchiare dopo aver girato per le sue terre. Raccontò quindi al figlio maggiore la sua decisione e ordinò al giovane di organizzare tutto e mandò a chiamare il secondo figlio perché aiutasse con il trasloco. E arrivò il giorno in cui furono pronti e si trasferirono. Prima Loto e Cucù e le loro schiave e masserizie, poi il figlio maggiore di Wang Lung e sua moglie e i loro servi e le schiave. Ma Wang Lung non volle andarsene subito e tenne con sé il figlio minore. Quando arrivò il momento di lasciare la terra dove era nato, non poté farlo così facilmente né in fretta come aveva pensato, e alle pressioni dei figli disse: «Bene, allora preparate una corte per me solo, e il giorno che desidero verrò, e sarà un giorno prima della nascita di mio nipote, e quando me ne verrà voglia tornerò alle mie terre». E alle rinnovate pressioni dei figli disse: «C'è anche la mia scioccherella e non so se prenderla con me oppure no, ma dovrò farlo perché senza di me non ci sarà nessuno che la faccia mangiare». Disse questo con un po' di rimprovero verso la moglie del figlio maggiore che non sopportava di avere vicino la scioccherella ed era schizzinosa e delicata e disse: «Una così non dovrebbe vivere affatto, è già solo a guardarla rovina il bambino che porto dentro». E il figlio maggiore di Wang Lung ricordò l'antipatia di sua moglie per la ragazza, quindi tacque e non disse più niente. Allora Wanlong si pentì del suo rimprovero e disse gentilmente: Verrò quando avremo trovato una ragazza da far sposare al secondo figlio, perché è più facile stare qui dove c'è Ching fin quando la faccenda non sarà conclusa. Il secondo figlio smise perciò di insistere col padre. Oltre a Wanglung, al terzo figlio e alla scioccherella, in casa non era rimasto quindi nessuno tranne lo zio, sua moglie e il figlio, Ching e i lavoranti. E lo zio, sua moglie e il figlio si trasferirono nelle corti interne dove aveva vissuto Loto e se ne impadronirono. Ma Wanglung non se ne crucciò troppo perché capiva bene che allo zio non restavano molti giorni da vivere e quando l'ozioso vecchio fosse morto, il dovere di Wanglung verso quella generazione sarebbe terminato. E se il giovane non avesse seguito quel che gli dicevano, nessuno avrebbe biasimato Wanglung se l'avesse cacciato via. Allora Ching si trasferì nelle stanze esterne e i braccianti insieme a lui, e Wanglung e il figlio e la scioccherella vivevano nelle stanze centrali. E Wanglung prese una donna robusta come serva per loro. E Wanglung dormiva e si riposava e non faceva attenzione a niente perché all'improvviso era molto stanco e la casa era tranquilla. Niente lo disturbava, perché il figlio minore era un ragazzo riservato che si teneva alla larga dal padre e Wanglung quasi non lo conosceva, tant'era silenzioso. Ma alla fine Wanglung si decise a ordinare a Ching di trovare una ragazza da far sposare al secondo figlio. Ching era ormai vecchio e avvizzito e magro come una canna, ma aveva ancora la forza di un vecchio cane fedele, anche se Wanglung non gli permetteva più di prendere in mano la zappa o di seguire i buoi dietro l'aratro. Ma serviva ancora perché sorvegliava il lavoro degli altri ed era presente quando si pesava e misurava il grano. Così, quando sentì quel che Wanglung desiderava da lui, si lavò, indossò la giacca buona di cotone azzurro e andò da un villaggio all'altro e guardò molte ragazze e alla fine tornò e disse: Ecco, preferirei dover scegliere una moglie per me che per tuo figlio. Ma se si trattasse di me e fossi giovane, a 3 villaggi da qui c'è una buona, florida e attenta ragazza, senza difetti, se non che hai il riso facile, e suo padre è pronto e felice di legarsi attraverso di lei alla tua famiglia. E la dote è buona per questi tempi, e lui possiede delle terre, ma ho detto che non potevo dare la promessa fin quando non l'avresti data tu. A Wanglung il tutto sembrò buono e sufficiente, ed era impaziente di concludere la faccenda. Quindi diede la promessa e quando arrivarono le carte vi appose il suo segno e disse sollevato: Ormai mi rimane solo un figlio e poi avrò finito con tutti questi matrimoni e ne sono felice perché sono vicino alla mia pace. E quando la cosa fu stabilita e il giorno delle nozze fissato, si riposò e si mise al sole e si addormentò proprio come aveva fatto suo padre prima di lui. Poi Wanglung pensò che siccome Ching era diventato debole per la vecchiaia e anche lui si sentiva pesante e sonnolento per il cibo e l'età, e il terzo figlio era ancora troppo giovane per potersi assumere responsabilità, sarebbe stato meglio affittare alcuni dei campi più lontani ad altri del villaggio. Così fece, e molti uomini dei villaggi vicini andarono da Wanglung per prendere le sue terre e diventare suoi affittuari. E fu stabilito il prezzo dell'affitto, metà del raccolto a Wanglung perché era il proprietario e metà del raccolto all'affittuario per il suo lavoro. E c'erano poi altre cose che ciascuna delle due parti doveva inoltre fornire. Wanglung doveva dare un po' di concime dalla sua riserva e tofu e scarti di sesamo dal suo torchio dopo che il sesamo era stato pressato per farne olio. E l'affittuario doveva riservare certi raccolti per l'uso della casa di Wanglung. Poi, siccome non c'era bisogno che lui stesso dirigesse il lavoro come un tempo, Wanglung a volte andava in città e dormiva nella corte che si era fatto preparare, ma il giorno dopo ritornava sulle sue terre, varcando la porta nelle mura che circondavano la città non appena veniva aperta, subito dopo l'alba. E annusava il fresco odore dei campi ed era felice quando arrivava sulle proprie terre.